La Sharia. La Sharia è il codice nel quale sono contenute le norme divine che governano il dono della vita nella sua interezza. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, è il modello umano proposto da Allah, rifulga lo splendore della sua luce, all'uomo che voglia realizzare la propria autenticità umana e rispettare la propria dignità. Ogni uomo, nella vita esemplare del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, trova le direttive chiare per ogni comportamento di cui Allah si compiace. Da quello strettamente personale a quello sociale, come uomo, come figlio, come marito, come padre, come predicatore, come maestro, come operatore economico, come uomo di Stato, come comandante, come negoziatore di pace, come giudice o come capo di Stato. E ogni donna, negli insegnamenti del profeta e tramite le sue mogli, le madri dei credenti, che Allah si compiaccia di loro, trova le direttive per vivere in maniera completa la propria condizione femminile. Ciò che rende autenticamente umano un comportamento è quindi, per i motivi appena esposti, la conformità ai precetti di Allah, rifulga lo splendore della sua luce, e agli insegnamenti del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria.